edizione. Le 6:18 e 17 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le prime, a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani, oggi in edicola. Lo faremo naturalmente subito dopo la viabilità. Prima edizione. Le 6:20 e 15 secondi, dunque di nuovo buona giornata a Simone Spezia, un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, come si diceva un attimo fa. Iniziamo dal Corriere della Sera, che sceglie un'apertura che riguarda l'Europa, e però non la questione greca, ma il piano di Monti e di Cameron, il documento in favore della crescita di 12 paesi guidati proprio da Italia e Gran Bretagna, un documento di 12 paesi al quale mancano Francia e Germania. Il titolo è proprio questo, il piano di Monti e Cameron, e a Bruxelles si tratta per il via libera all'accordo sulla Grecia. Vi segnalo tra l'altro che proprio su questo tema, sul piano per la crescita, ha parlato pochi istanti fa il Presidente del Consiglio, Mario Monti. Dice che la lettera è destinata al Consiglio Europeo che si terrà il 1 marzo, quindi di fatto è un modo per non commentare stamattina quella lettera. Un commento in prima pagina di Federico Fubini: Merkel e Sarkozy si scoprono minoranza. Poi gli altri temi che riguardano in particolare la riforma del lavoro: sull'articolo 18 parte la trattativa dal 1 marzo, e poi la lettera dei giovani: basta privilegi, si punti sul mercato. Il commento di prima pagina oggi, l'editoriale di prima pagina, è l'amalgama inesistente a firma di Angelo Panebianco. Come potrete immaginare, ci si riferisce alle difficoltà delle quali molto si parla in questi giorni sui quotidiani dei partiti. Si parla delle crisi parallele di PDL e PD. A centro pagina ci sono due cose. Innanzitutto una foto di Putin con dei curiosi occhiali durante la visita al parco tecnologico di Novosibirsk, sono degli occhiali blu, una questione che parla di strategia elettorale, un pezzo che parla di strategia elettorale del presidente russo. Putin schiera 400 missili e i Cosacchi, il titolo del pezzo di Fabrizio Dragosei. Ma a centropagina c'è anche la vicenda del Policlinico, della quale parleremo più avanti. Sotto accusa Policlinico di Roma, il Policlinico Umberto I, legata ad una barella 4 giorni in pronto soccorso. Aperta un'inchiesta, l'ospedale che dice succede proprio così. Di taglio basso, contratto antigravidanza scuote la RAI, anche di questo parleremo più avanti. Denuncia dei giornalisti precari, clausola prevede il licenziamento, l'azienda mai utilizzata. E poi sulla vicenda India Italia, nel mistero dei Marò, scrive il Corriere della Sera, ora spunta una nave greca. Veniamo alla Repubblica, che sceglie invece un'apertura dedicata ai prossimi provvedimenti fiscali in arrivo. Tasse ed evasione, ecco il decreto, forse subito il taglio dell'IRPEF, Monti, riforma del lavoro con o senza intesa. La Repubblica riporta anche, a proposito, oltre ad una grande foto dedicata alla vicenda del Policlinico, o come si diceva, della quale parleremo più avanti, a centropagina sempre la vicenda dei Marò, dei due soldati italiani arrestati dall'India. A poche miglia, nello stesso giorno, altri attacchi di pirati. Marò, il rapporto che smentisce l'India, e quindi sarebbe un punto a favore dell'Italia. Non c'era solo la nave italiana Enrica Alexi a vedersela coi pirati mercoledì scorso davanti alle coste del Kerala, scrive Repubblica. Poche ore dopo un'altra petroliera è stata attaccata ed era 2,5 miglia a sud dell'ormeggio dove la nave italiana è stata attirata con l'inganno. E anche qua si parla dunque della nave greca. Un titolo dedicato a Dulbecco, addio a Dulbecco, Nobel timido del DNA, e poi la rivolta contro la RAI, perché col computer si paga il canone, vicenda che avrete già sentito naturalmente nei giorni scorsi. Si sta facendo un po' più forte la polemica in queste ore. La Stampa apre titolando evasione stretta di Monti, sugli aiuti di Bruxelles alla Grecia non c'è accordo, si tratta ad oltranza, ma naturalmente ovviamente il sommario è stato superato dai fatti della notte, dalla conferenza stampa di poco fa della quale vi abbiamo parlato. Si parla della visita a Cagliari del Presidente della Repubblica, Napolitano serve un welfare diverso e la replica di un contestatore, non rappresento le banche, e si parla anche dell'iniziativa dei 12 paesi per la crescita con l'Italia in prima fila. Anche qua sul caso Roma Nuova Delhi un titolo ancora diverso dalla Stampa: i due pescatori colpiti altrove nella zona, un'altra sparatoria in difesa di una nave greca. Anche qua la storia del policlinico Umberto I di Roma in prima pagina con ampio risalto, così come con ampio risalto l'addio a Dulbecco, Nobel del genoma. Tra i pochi quotidiani la Stampa che tiene in prima pagina l'incidente che c'è stato ieri in Afghanistan e che ha riguardato 3 soldati italiani. Il blindato finisce nel fiume, morti 3 soldati italiani, sono annegati mentre stavano soccorrendo un altro automezzo. Sulla Stampa sempre la condanna a 7 milioni della quale vi abbiamo parlato poco fa, la sentenza a Torino per l'azienda per Fiat, il giudice, la RAI ha denigrato Fiat, si parla naturalmente del servizio di anno zero del quale vi riferivamo all'interno del giornale radio. Apertura del Sole 24 Ore, Grecia stretta finale sul piano europeo e poi la lettera a Bruxelles di 12 governi senza Berlino e Parigi per rilanciare la crescita. Il commento di prima pagina a firma di Adriana Cerretelli. Va sotto la testatina l'Europa dei contabili, il titolo è Salvezza, non solidarietà. Il titolo di spalla è dedicato a Monti, il Presidente del Consiglio a Piazza Affari, adesso migliora la fiducia sull'Italia. Dice Francia e Germania sono poco aperte sulle reti, fa notare appunto Monti. Commento di prima pagina, il consenso della City milanese, di firma Simone Filippetti e Moria Longo, finanza e politica, di questo si parla. Titolo forte anche per la vicenda del policlinico Umberto I, anche sul Sole 24 Ore, anche qua in prima pagina si parla dei 3 militari morti in Afghanistan. Centro pagina dedicato alle modifiche in arrivo sul fisco, dal 2014 sconti a tempo per il premier, riforma del lavoro entro marzo anche senza un'intesa, e poi il fondo antievasione che servirà a coprire l'aumento delle detrazioni per le famiglie. Il pezzo dedicato a Renato Dulbecco sul Sole 24 Ore è firmato da Gilberto Corbellini, il Nobel che scoprì le metamorfosi cellulari e del male, questo il titolo del Sole 24 Ore. Il Messaggero, quotidiano di Roma, l'apertura è sullo shock al pronto soccorso, Roma shock al pronto soccorso, legata per 4 giorni alla barella, inchiesta della procura, parla il ministro della sanità intervistato dal Messaggero, intollerabile, c'è troppa disorganizzazione, dice Balduzzi, sulla base degli elementi di cui dispongo al momento pare però che il trattamento clinico della signora sia stato corretto. Da segnalare che il Messaggero sulla vicenda dei Marò riporta un'altra notizia che ci interessa, sulla vicenda dei 2 soldati arrestati in India, manifestazioni anti-italiane in India, questo il titolo del Messaggero, e qua chiudiamo questa breve rassegna stampa, ci ritroviamo tra un attimo con Italia in controluce. Prima edizione. Sono le 6:35 minuti, il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Ed Italia in diretta su Radio 24, oggi 21 febbraio, vi parla Daniele Biacchesi. Seconda puntata del viaggio d'Italia in controluce verso le prossime amministrative 2012, con un dibattito in corso tra primarie del centrodestra e del centrosinistra. La puntata odierna l'abbiamo girata all'Aquila, quella del post terremoto e delle mille emergenze. Il reportage di Cristina Carpinelli. Il 5 e 6 maggio la gente dell'Aquila andrà a votare per scegliere il proprio sindaco. Quali sono le priorità? Che cosa vuole la gente dell'Aquila? Siamo isolati, siamo come stanno i carcerati con le porte aperte. È come se fosse un domicilio coatto. Non conosce nessuno. Gli abitanti che vivono nei prefabbricati, consegnati dal governo Berlusconi, soffrono un isolamento fortissimo. Ai vecchi manca il paese e un posto dove incontrarsi. Si parla di 13.000 persone sparse in 19 complessi. Altre 500 vivono ancora, ormai da 3 anni, in una stanza d'albergo. La gente dell'Aquila, al sindaco uscente e a quello che prenderà il suo posto, chiede semplicemente questo: una casa e che la propria città ricominci normalmente a vivere dopo il terremoto che l'ha colpita nel 2009. Mattia Fonzi è un ragazzo che si sta spendendo molto per il bene della sua città e fa parte dell'associazione Appello per l'Aquila. Noi ci troviamo di fronte a un bivio che riteniamo storico per la città. Abbiamo davanti gli anni difficili della ricostruzione che non è ancora partita e comunque lo dobbiamo fare ora e tutti insieme, e non possiamo più sperare che lo faccia qualcun altro al posto nostro, ma dobbiamo farlo tutti dal basso. Molti cittadini hanno cominciato a unirsi dunque ed organizzarsi. Ettore Di Cesare, 46 anni, laureato in matematica, imprenditore nel campo delle nuove tecnologie, è il candidato sindaco del Movimento Civico Appello per l'Aquila. Massimo Cialente è il candidato uscente. Non è detto sia il candidato presentato dal centrosinistra, che infatti a marzo andrà alle primarie. Ma, essendo stato alla guida della città, vogliamo sentire da lui cosa c'è da fare all'Aquila. Guarda, io sono impegnato in prima persona perché la ricostruzione è completamente ferma. Io continuo ad avere gente, i miei concittadini, dentro gli alberghi, per cui spendiamo oltre 100.000 euro al giorno, ripeto, 100.000 euro al giorno per assistere a queste persone. Comunque il tema è quello, il tema della casa, il tema della ricostruzione. Io veramente inserisco anche il tema della ricostruzione del progetto della città, ma da un punto di vista strategico, cioè anche cosa farà la città. Era il reportage di Cristina Carpinelli dall'Aquila. Torniamo oggi 13.30 Radio 24 con nuove storie. Le 6, 38 minuti e 26 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque parliamo di questo accordo raggiunto a Bruxelles sul salvataggio della Grecia, 130 miliardi di aiuti, 130 miliardi di euro arriveranno dagli stati europei. Sentiamo qualche voce dalla conferenza stampa di poco fa, iniziamo da Jean-Claude Juncker. From losses under the debt exchange will generate profits for the euro system. Tra le altre cose che ha detto Juncker, ha detto che l'ammontare totale degli aiuti pubblici alla Grecia è ancora da definire. In realtà, secondo il rapporto, questo è quello che ha detto ieri sera. In realtà, ha detto Juncker, l'accordo raggiunto all'Eurogruppo garantisce la tenuta della Grecia nell'euro e le dà il tempo di tornare su un percorso di crescita sostenibile. Queste le sue parole. Accordo, come dicevamo, che prevede 130 miliardi di aiuti e prevede un approdo a un 120,5% di rapporto tra debito pubblico e PIL nel 2020. Il cosiddetto haircut per i debitori privati sarà del 53,5%. E poi il commissario europeo agli affari economici e monetari, Olli Rehn. In the past two years and again this night. Allora, che cosa ha detto tra le altre cose importanti Olli Rehn? Ha detto che gli stati dell'Eurozona hanno deciso di partecipare al secondo programma per la Grecia abbassando gli interessi sui prestiti concessi ad Atene, e che è una questione importante. Tra le altre cose che ha detto Rehn è che di fatto ci sarà una presenza permanente della Commissione europea e della cosiddetta Troica, ossia il gruppo di lavoro europeo, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario, ci sarà una presenza permanente ad Atene che sorveglierà sull'applicazione appunto del programma. E poi ha parlato anche il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. Very briefly, I would like to L'Eurogruppo ha detto la Lagarde si aspetta dal Fondo Monetario una partecipazione importante al piano di aiuti per la Grecia, ma importante vuol dire molte cose e il board del Fondo Monetario Internazionale deciderà. A metà marzo e ancora, ha detto Lagarde, la Grecia ha fatto sforzi molto importanti, ora serve che proseguiamo il lavoro e che tutti gli elementi siano sul tavolo. Obviously subject to the prior actions that Greece has committed to deliver. Questa dunque Christine Lagarde, noi cambiamo argomento ma non troppo. E lo facciamo parlando con, salutando e ringraziandolo per essersi svegliato a quest'ora come sempre, lo facciamo sempre con i colleghi che lavorano con il quotidiano perché di solito finiscono tardi la sera. Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, con te vorremmo affrontare due argomenti. Primo, prima di tutto, diciamo non prima di tutto, ma partiamo dal ruolo di Monti in Europa, poi approderemo invece a quello che è successo ieri a Piazza Affari, alle parole di Monti ieri alla sua presentazione davanti alla comunità finanziaria italiana. Prima però vorrei partire dal ruolo europeo perché ci sono due notizie che si accavallano in queste ore. Da una parte c'è l'accordo arrivato sulla Grecia e non dimentichiamoci che non più tardi di tre giorni fa c'è stata una telefonata proprio tra Merkel, Papademos e Monti che probabilmente è servita a sciogliere qualche dubbio. E dall'altra parte questo scavalcare Germania e Francia con una lettera firmata insieme alla Gran Bretagna per la crescita destinata proprio all'Eurogruppo. Ci sembra a questo punto il ruolo italiano sia pienamente riguadagnato, Stefano? Sì, direi di sì. La vicenda greca dimostra che l'Italia oggi è in condizione di svolgere una funzione di raccordo sul piano europeo, direi quasi di mediazione, se vogliamo usare questa espressione, per andare a risolvere o quantomeno a tamponare la peggiore crisi che l'euro ha conosciuto dalla sua nascita. E poi anche però con questa lettera l'Italia dimostra di avere anche un'iniziativa che serve, o perlomeno il cui obiettivo è di, come dire, in qualche modo contenere la Germania, indurre la Germania con il tempo, naturalmente non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani, a sentirsi più europea, a sentire di più il vincolo della solidarietà. Sia la soluzione parziale, ripeto, ma insomma in questo momento diciamo soluzione della vicenda greca, sia questa iniziativa presa con altre nazioni, vedono l'Italia in prima fila e la vedono, diciamo, perseguire l'unico obiettivo possibile in questo momento, quello di rendere la Germania più europea, dopo che a lungo, nelle prime settimane, primi mesi del suo mandato, Monti ha detto, secondo me giustamente, che l'Italia deve diventare un po' più europea e se vuoi anche un pochino più tedesca. Adesso sta dicendo alla Germania, lo sta dicendo con credibilità, sta dicendo alla Germania che la Germania stessa deve diventare un po' più europea, deve sentire di più la solidarietà. È importante che l'Italia possa svolgere questo ruolo. Questo dal lato europeo, Stefano. Dal lato interno i messaggi mandati ieri nell'incontro a Piazza Affari dal Presidente del Consiglio sono stati abbastanza netti, insomma. Forse non è la prima volta che il governo lo dice, però in questa fase ribadire che sul lavoro si va avanti comunque, sulla riforma del mercato del lavoro si va avanti comunque e nel frattempo portare avanti un decreto fiscale che presumibilmente porterà un alleggerimento dal lato dell'IRPEF sono elementi, no, di anche prove, sì, di forza, se vogliamo, no? Sì, sul fisco non aspettiamoci risultati strabilianti adesso, è un segnale politico che il governo dà, bisognerà misurare i tempi di questa effettiva riduzione fiscale che non credo siano immediati, però indubbiamente c'è un segnale e soprattutto c'è l'idea che sul mercato del lavoro il governo farà di tutto per evitare strappi, si cercherà in tutti i modi di mantenere ampia la coperta del consenso, però non si subiranno veti, ecco, il governo non potrà subire il veto di un'organizzazione o di un gruppo di pressione, perché è troppo importante è la riforma. Riforma da fare con equilibrio, nel rispetto di tutti, delle sensibilità sociali, però indubbiamente è una riforma di cui il nostro sistema economico ha urgente bisogno. L'averlo ribadito in questo modo calmo, ma direi determinato, è importante. Più in generale direi che il governo in queste sue iniziative sempre di più sta dando l'idea di un disegno complessivo. Non sono più dei tasselli che sono dettati dall'emergenza senza un filo conduttore, sono ormai delle tessere di un mosaico in cui si intravede una visione complessiva del paese, e questo indubbiamente è un elemento importante e anche un elemento politico. Un governo tecnico comincia a esprimere in un modo piuttosto coerente una visione politica dell'interesse del paese. Prima edizione. Le 6:48 minuti, veniamo alla Procura di Roma che ha aperto un'inchiesta su tutti i pronto soccorso della capitale dopo l'ispezione di ieri mattina al Policlinico Umberto I. Si diceva, due parlamentari, Ignazio Marino del PD e Domenico Gramazio del PDL, presidente e vice della commissione d'inchiesta del Senato sul Servizio Sanitario Nazionale, hanno trovato una donna in coma dopo un trauma cranico legata alla barella con le lenzuola e senza nutrizione da 3 giorni. Sentiamo la ricostruzione dell'ispezione al Policlinico proprio da parte di Domenico Gramazio al microfono del nostro Paolo Panceri. C'è un buco nero nel Policlinico, il buco nero si chiama la piazzetta, cioè un luogo dove vengono portati i cittadini che arrivano lì o in barella o lì per propria autonomia e vengono curati per poi essere assegnati ai vari reparti o alle strutture convenzionate accreditate. Lì abbiamo trovato, invece di 8 posti letto, ne abbiamo trovati 21, 8 posti letto, il resto tutte barelle inserite in una situazione uomo e donna vicino, malato e non malato, pazzo o non pazzo, tutti nella stessa struttura. Facendo il giro, Marino si è accorto di due cose che cadevano ai lati di una di queste barelle: erano due fasce che tenevano ferme le mani di questa cittadina che era bloccata, non era nell'intendere di volere, quasi in coma, aveva sbattuto la testa ed era caduta a casa, aveva 59 anni, da quello che dicono i medici era ricoverata lì da 4 giorni, Marino si è accorto e mi ha segnalato immediatamente che non era alimentata, non aveva un sondino per l'alimentazione, ci è stato risposto che non era alimentata perché attendevano la possibilità di farla ricoverare in altra struttura e quindi lì sarebbe iniziata l'alimentazione. Mi dicono le agenzie che si sono rimangiati quanto detto, siccome l'hanno detto davanti a 2 ufficiali di polizia giudiziaria, che sono 2 ufficiali dei carabinieri NAS che ci hanno accompagnato e che appartengono e fanno parte del nucleo ispettivo che ha la commissione di indagine sul Servizio Sanitario Nazionale, i funzionari dei NAS hanno segnato ogni dichiarazione sul numero dei posti letto, sui ricoveri, non ce l'aspettavamo proprio, arrivare lì e trovare quella situazione ci ha veramente sconcertato. Poi ci sconcerta di più il tentativo di giustificazione di questa storia. C'è un verbale fatto da ufficiali di polizia giudiziaria che vale più della mia dichiarazione di parlamentare e della dichiarazione del direttore della struttura. Le 6:50:30, grazie a Viola Bottoni in redazione, Peter Bescapè in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci sentiamo tra poco con il giornale radio.